nome e cognome, chi creava i tuoi genitori e che legame che te hai con la comunità del Besanello. Marco Calavin, Besanello, i genitori il Dante Calavin e la Serafina Azzolini. Legame con la cosa del Besanello, nonostante che si sia in una famiglia importata, perché insieme mia mamma è l'Aldalizzana e mio papà è da Volam, se vieni qua, negli anni 50 con i pullman, e dopo se ne è dentro nella comunità, con difficoltà, anche che sta delle difficoltà, ma anche delle soddisfazioni, per carità. Dopo mi sento conglobato dentro mi sono nato a Besanello, sono nato Ruspante, sono nato in via Scanuccia, questa è uno dei pochi anni che io ho fatto, l'ultimo anno, che nel 57, che te era il poteva partorire in casa, col 58 e li portava all'ospedale a Roveredo, ecco. Dopo, da dove è nato il tuo impegno nel volontariato, nel sociale? Allora, l'impegno nel volontariato, qua alle Acli, è disente che il maggior onere che lo ha è il Renato Piffer. Renato Piffer è il nostro maestro, il mio maestro e il maestro di tanti altri che era qua, che è quel che ci ha fatto un mazzo, ma veramente un mazzo, perché i putanti fondatori che è ha abbandonato il tutto, e questo qua, Renato Piffer, la tira avanti quasi 10 anni da solo. Non dico 10 anni, adesso non lo so gli anni giusti, però la tira avanti da solo il circolo, e il Gavù, anche l'intelligenza, perché è molto, ma molto, per conto mio, è molto capace di tirare quei giovani come Romì, come era tanti altri, Lucio, Stefano, il Rodolfo e tanti altri che li attirai dentro, e è nato questi primi gruppi, che dopo il gruppo giovani è nato da noi, ma prima sta il gruppo del che sta fatta la castagnata, dopo sta fatta la compagnia teatrale, e sempre naturalmente molto, ma molto spinto dal Renato, che quello, mi avevo tanto di capello. Come è stato il tuo primo approccio alle Acli? Ah, quella, diciamo, il boccia che deve qua al bar, il gradasco, come fai tutti i bocci, a mangiare, bevere, divertirsi, dopo. Delle Acli in sé, all'inizio, non interessava proprio una bella Eva. Dopo è nato il tutto, naturalmente un po' carente, un po' dalla nascita del giornalino, anche quello sempre molto spronato dal Renato, e dopo anche da tutte le varie iniziative che sta fatta, dalla festa Scanuccia, dalla macaronata che sta presa dopo 10 anni che l'era fermo a Besanello, ne si è buttata, infatti che domandava a quelli di Caliam, mi ricordo il Carlo Rosi che veniva su a farne il sugo la prima volta, e dopo andare a abbinare insieme gli ingredienti per fare il ragù e tutto, sta l'iniziativa che sta molto, ma molto, ma non mia, di tutti insieme, di tutti, quella che era una ventina di boci come me, 20 anni, la gara anche la Livialba, che la veniva 15, 16, perciò è su e su. Dicente, più vecchio, il maestro è sempre stato il Renato Piffer. È quello che il nostro guru, come il coso, come lo. Sì, quello. Dopo, naturalmente, anche lui, giustamente, la lascia decorrere, la lascia andare avanti noi, e dopo, come è successo anche a noi, la lascia decorrere e la lascia ad altri, perché è inutile venire a 40, 50 anni a fare il coso, il giovane, non te hai altre mentalità, te hai poi ti sei in cammino di lì. Certo. Te lasci sempre a loro. A... Luciano racconta proprio che se stai ossigeno puro per... Sì, ma infatti sta questa ventata dei de giovani che si trovava al bar, non sapeva cosa fare, sbandai perché da una banda, dall'altra, e dopo dai fai questo, fai quello, sempre sull'imbeccata di uno, imbeccata dell'altro, e sta fatto parecchie robe, ma solo esclusivamente per il puro divertimento locale, cioè ludico nostro. Un po' credete anche a Luciano il fatto che le cene sono importanti, i ritrovi sono importanti. Ma per sempre, dopo, quel che ha fatto un po' decadere il coro, sta quando si pensa di fare qualcosa serio, e allora quando si comincia a fare qualcosa serio, quando fai qualcosa serio, si comincia a appesantire la cosa. Se ti si comincia a fare qualcosa di serio, dopo allora... Guarda quei che non ha più lo spirito del divertimento. E quello che se manca spirito del divertimento sparisce tutto. Perché dopo anche, quando ti hai intenzione di fare qualcosa e te fai anche volontariato, ma te fai con piacere, non con dovere, con piacere. Te fai tutto un altro discorso che farlo per dovere. E dopo anche quello che mi sono convinto che l'annapagamento di quel che dà, forse il ciappa di più quel che dà che quel che riceve. E allora tanti dà anche per ricevere di più di quel che dà. L'annapagamento morale tutte... il compiacimento del volontariato. Sì. E forse adesso ho cambiato idea del discorso del volontariato, perché il volontariato mi piace fino a un certo punto, perché il volontariato deve essere fatto fino a un determinato cosa. Dopo, quando si comincia a subentrare, non so, adesso sono blasfemo perché parlo di alpini, parlo dei pompieri, mi va ben tutto, però quando malattia, ecco, quando ti cominci a fregare di posti di lavoro delle altre persone, i volontari della Croce Rossa, mi levo tanto i capelli perché fa volontari della Croce Rossa, però è che tira via posti delle persone. Ho andato l'altro dia a fare il vaccino, ecco, che gli alpini oltretutto mi sa gestire le persone. Come ti dico, gli alpini, è un corpo militare e è meglio che il vaga a sparire, nonostante che abbia fatto l'anaio o fatto l'alpino. Ascolta, cambiando leggermente il discorso, Luciano mi racconta questa cosa, che voi se entrai e avevi portato anche idee nuove, tra cui l'idea nuova del mercato, del mercato solidale. Sì. Te mi puoi contare questa parte qua? Beh, allora, di gente che mi, la Livialba, il Marino, la Sandra non la guerra ancora perché non era ancora sposata, la Cecilia, Rodolfo, e siamo dei soci fondatori del Mandacaru. Nego la testa da 37 e qui altri, perciò non è... E ne è messo a fare parecchio volontariato a cosa sua, quando iniziò proprio la bottega del, quando erano le macaronade, era il mercato, cioè dopo, all'inizio no, ma dopo che sta fatta anche il banchetto, anche tuttora che è quando lo fa. Dopo vari progetti con la Pibini, con tanti altri progetti, adesso non mi ricordo, però. Ma dopo tante energie che ne ha tolto, che anche era un piacere, era il giornalino. Il giornalino che era il parlare con la gente sulle robe, cioè, sulle parole, cioè sui fatti concreti della zona di Besonello. Una delle robe che mi resta impressa era proprio quando stasera qua, che era Don Cristelli. le invitazò, guarda che ti parlo, non so, non ti dico 40 anni fa, ma quasi, sì, 40 anni fa. E se le invitò per parlare del mondo di qua, di là, da fare una carrellata, e quel che mi resta impresso, benedetti ragazzi, prima fai fuori le vostre robe, i vostri misteri interni, i vostri locali, e dopo potete pensare anche al terzo mondo, ecco, le robe lì, in modo che le qua che si cambia le robe anche nel terzo mondo, non è dando i soldi ai Moretti come ti pensavo una volta. E quello le sta una svolta, è la vera. Dopo infatti la lista non era come Acli, perché non era giusto mettere dentro le Acli e fare la lista comunale, la partecipazione alternativa, che se ne è dentro con un consigliere che ero mio la prima volta, dopo se ne è dentro con tre, dopo siamo arrivati con cinque, e adesso serie i seguaci di quei che è adesso, pium, grosso modo. Ti senti che avessi seminato? Sì, abbiamo seminato. Abbiamo seminato e sono un semo. Nel senso che ti sei in semo, perché capisco, capisco il discorso. A volte quando ti proponi cambiamenti è difficile all'interno della comunità che è essenzialmente tradizionale. Infatti la mia domanda le sta difficile portare certi argomenti all'interno della comunità. Madonna, beh, tuttora bisogna essere meditai come i soliti verdi, i soliti comunisti, i soliti... il coso, l'ambientalista de merda e tutte le zoe, che te cosa. Cos'è che ti pensi di aver portato alle Acli? Guarda, mi te dico... Come gruppo, allora? Ma no, come gruppo... Luciano le dà atto che... Ma no, non è fatto, ma non le fa per gli altri all'inizio, le fa per noi stessi, era un divertimento nostro. Infatti i vari compleanni ultimi dell'anno che sta fa qua, era una festa che era eccezionale, ma era tutta la nostra compagnia, chi voleva venire veniva, ne sta fatta 5-6, e dopo le varie feste, le porchette, le castagnate, le sta fatta, ma forse non era tante leggi che magari metteva paletti fra le ruote, adesso una volta tu potevi fare un po' tu quel che ti volevi, adesso te sei lì col, e dopo ti sei lì con la paura, che a volte dici ma chi se ne frega, anche a quello, che purtroppo uno che fa il presidente, come mi capisco la Chiara, che la se sia impaurita per quelle robe lì, mi te dico che levo tanto di cappello, dico per carità, hai ragione, fa quello che te devi, non ti determini qua e te vuoi fare la cosa dopo, no, se te hai timore è meglio te lasci perdere, è fatto quel che la... Se ne pensi, Stefano? No, ha ragione, no? Sicuramente una volta era più comodo, ma l'era all'inizio, l'era anche in periodo che a Besnel non era mai stata più niente, perché gli aveva smesso tutti. Macronale era stata smessa da 2 anni, mi pare che era il Mario Pesata, il Mario Goller che l'aveva fatta gli ultimi anni, ma... E so che gli avevano domandato appunto l'attrezzatura a Cagliam, gli avevano domandato l'attrezzatura a Cagliam, a Carlo Rosi, e sì, le venne su, l'ha aiutato, l'ha fatta la cosa. Dopo è cominciato anche lì, sempre, non era come Acli, però era sempre Acli, perché era gruppo giovani Acli, era più o meno, no, era la stessa roba, però non era, perché quel che era dentro nelle Acli era dentro nel gruppo giovani. Sostanzialmente l'altro. Perché quelli che veniva a fare la festa della macaronada, era da disegnati dai 13-14 anni, fino a... Ma a volte non erano neanche tesserati, poi non è che ne frega niente del tesseramento delle Acli, perché no. dita fra de noi, sì, le acque di Trento, noi non ne è mai fregato niente, proprio paro paro, a me mamma mia. Nonostante che sia il coso, che il, come si chiama, fa parte della cooperativa Mondo del Lavoro, se questo non so neanche come si chiama, si chiama anche un altro modo. Io non saprei, in realtà, non sono più aggiornato su quello che è la proprietaria dell'immobile. La proprietaria? Ma spiegai lo tempo fa, che non le pure altri, le proprietarie, pur avendo pagato mutuo, la roba e tutto. Ma poi, quando siamo entrati noi, era, invece che era una barca dei debiti, era una... Allora, cazzo, come si fa ad avere debiti? Te paghi una barca, perché allora cosa, un banca ci paga una barca del decoro, dei soldi, interessi, perché era l'inflazione e tutte quelle robe lì. E se non riuscì a pagare, fino a tutto, a pagare tutti i debiti, non ti dico tutti insieme, perché non... Ho fatto parecchi anni, sicuro una decina dai, forse tutti, che fevano la chiusura, noi dalle 10 alle 11 e mezza la fevano la direzione. E prima veniva la putella oppure un, come fa adesso, più o meno, dai. E le... Comunque... Mettate una finestra temporale, da che anno a che anno? Guarda, io sono sposato nell'83. Nell'83 mi ricordo che avevo ancora chiusure alle Acli, 83, anche quando è nato MFO. Sì, sì. Adesso dirti. Anche prima della militare, 75, dai, 75 fino al... Adesso non mi sono mai andato, già non ricordo quando sono andato, ma... Ascolta, ovviamente che mi interessa molto, perché io zugapi un po' qua per un po' di anni, e nelle pause chi era mobile ed era tutto l'archivio del sotto al castello. Sì. Allora, intanto che aspettevo il mio turno, mi sono letto un sacco di cose. Te mi racconti questo sotto al castello? Le natte, appunto, per dargli una... sempre. Allora, gente, Renato Piffer, la Cecilia, Rodolfo, Marino, la Livia Alba e tanti altri, Lucio, che era la ricerca storica e tutto. E dopo si chiedeva al spazio, a tutte le associazioni, chi poteva scrivere la sua paginetta, dai pompieri al gruppo anziani, al gruppo missionario, Ezzo, chi che era, e se si pubblicava, veniva il ciclo stilato qua, ciclo stilato, impaginato qua, su queste tavole qua, e dopo si distribuiva, ognuno aveva la sua via e lo distribuiva, e era, apprezzato. Ti ricordi quantità e tiratura? Quantità deve essere tutte le famiglie, di solito, le fanno tutte le famiglie. Non era nominativo, era famiglia. Mentre ne sono nel cassetto delle lettere. E c'era 400-500 copie. E come veniva visto il paese? No, per me veniva bene. Non ho mai nessuna critica, a parte quando si ne vaso di brutto su certi argomenti. Che sta delle cose, delle varie diatribe, per carità, quando sta le varie lottizzazioni di qua e di là, noi che avevamo un'idea totalmente contraria, poi l'ha fatta lo stesso, ma comunque a me mi sta... Perché proprio la proposta che ho fatto ai primi giorni di stampare una rivista, in sto periodo qua anche sembra tutto digitale, ma cavolo che avevo un tot di carte da leggere la sera. Noi abituai. Siamo un po' abituati, te vado nei giornali, te vado sul telefono. Quello è molto piacevole da avere l'oggetto del pensiero. Sì. Era poi, oltretutto, era a gratis, perché te devi fuori senza nessun pagamento, certo, né niente. Era un onere che veniva pagato dal gruppo giovani e Acli, insomma. Cioè, l'era do conti separai, però è evidente che l'era una, una, una... un buon calderone. Sì, l'era... Comunque il discorso è che per conto mio deve essere fatto sempre con divertimento. La direzione a Cagliari la deve essere fatta con divertimento, sennò no, fuori. È un dovere da poter rompere le madone. Noi quando che sta qua che fa casini immensi, ma te le fedi nel limite del. Non ti dico che fa chissà cosa, ma però divertimento. Perciò se fai zine, se fai cose, gite, fai... l'importante è aggregazione con quelli della direzione e coi soci. Purtroppo qua i soci gli è tutti rivolti, cioè i soci delle Aquile perché il bar, perché sennò. Ecco, sennò che fosse il bar. Ciao. Mi vedo anche perché gli stai abituati a questo pensiero. Ma io sempre stai così, no. Perché vuoi dire, mi danno una mano se venerdì prossimo fin qualcosa. Ma che è? Che se vuoi suare, sì, che ne è? Il costa, il capeta, un po' di zecca. Ma che ne è? E dico, vedrò, fai una pasta asciutta, venga a darmi una mano. Ma che è? Non ti dico mia di no. Cioè, bisogna coinvolgerli, ma coinvolgerli col divertimento, non col dovere. Mico una fiore, mico bisogno che, come dire, organizzare qualcosa, mi sono socio acli, e di farvi vedere a me fiola come si sta insieme. Sai, quel che manca per conto mio è il discorso Acli. Cosa cavolo? Acli è regionale, ora che è Trentino. Cosa è Italia, disente, quel. Cos'è? Cosa ne dà? Cosa fa? È lo soltanto quello che viene a tuori i soldi dalle tessere? Oppure. Cos'è? Posso anche ribaltare la questione dicendo Acli nazionale ne dà la possibilità, nazionale, non veniva la parola. Acli nazionale ne dà la possibilità comunque di tenere da vertigo perché la mi supporta. Ma la supporta il Pimperlo, perché se te fai un'altra associazione, te la fai l'associazione sì. Viva la Sì, ecco, te la fai e te la fai uguale. Anzi, puoi quando sulla sì, destra. e quando che cosa, quando che sta problemi con la Chiara, mi sa che non è adatta neanche a pure tanto coso supporto. E allora benedetti da Dio e non, ecco, purtroppo Anch'io, se posso, per me proprio sarebbe una cosa staccata fermo la registrazione.